Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Abbiamo ascoltato i Beatles in diretta qui sulla radio che più suona più suona. Siamo ritornati a chiacchierare dei viaggi. Ve l'ho detto, stasera sarà una puntata ricchissima. Devo correre, devo dare spazio a tantissimi ospiti e quindi io parto subito dai miei due non solo turisti, perché ritroviamo una coppia anche nella vita reale. Loro sono Fabio e Chiara. Ciao, buonasera ragazzi e benvenuti su Radio Stonata. Ciao a tutti. Allora ragazzi, io la domanda, siccome siete nuovi qui per non solo turisti questa sera, la domanda classica con cui parto l'intervista con i nostri appunto non solo turisti è: come avete conosciuto il nostro non solo turista Marco, o vabbè, come avete conosciuto la pagina non solo turisti? Sì. Beh, noi abbiamo un blog di viaggi in camper e stavamo cercando degli altri blog con cui collaborare. E siamo andati in giro su internet con Google, abbiamo trovato la pagina, il blog Non Sono Turisti, che è reputato uno dei 40 blog più importanti d'Italia. Abbiamo contattato Marco, che è stato molto gentile, non solo a farci scrivere solo un articolo, ma a chiedere proprio di collaborare insieme mensilmente. Mm-hmm. E quindi poi siete entrati in contatto appunto con non solo turisti. Ma poi, conoscendovi questa sera nel preparare l'intervista, voi avete anche una vostra pagina, l'hai detto anche tu, Fabio. Quindi parlaci un po' di questa pagina e di come nasce e del nome difficilissimo, ragazzi. Io ci provo e poi mi correggerete subito. Facciamo com'è. Allemandich, no? Allemandich. Porca miseria. Adesso spieghiamo anche il perché di questo nome strano. Dimmi. Allora, noi siamo una coppia sia nel lavoro che nella vita, diciamo così, siamo marito e moglie. Uh-huh. E i nostri cognomi si chiamano Allemandi e Mandic. Quindi li abbiamo tutti. Ed è venuto fuori Allemandic, cioè praticamente i Ferragnez ci hanno copiato. Perché loro sono usciti con quel nome ben dopo di noi. Sì, abbiamo lanciato la tendenza. E il blog è nato, sì, abbiamo un blog ed è nato in realtà per caso, perché ci piace viaggiare in camper, ci piace scrivere, ci piace scattare foto. A un certo punto ci è venuta l'idea di provare a mettere, diciamo, nero su bianco tutte le nostre avventure. È nato un po' per noi all'inizio e poi invece si è evoluto. Progetto e ora va abbastanza bene con il blog, siamo abbastanza soddisfatti. E particolarità è che noi giriamo col nostro camper che si chiama Merlino. Gli è andato a il camper si chiama Merlino. Merlino, sì. Ragazzi, prima di fare una piccola pausa, invece entriamo nel vivo proprio del vostro articolo che è pubblicato su Non Solo Turisti e per chi se lo vuole leggere e non solo sentirselo raccontare questa sera in diretta. Qui su Radio Stonata c'è il link sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Stonata, quindi andate e ci cliccate sopra così ci seguite anche su quello che ci stanno per raccontare i nostri due ospiti di questa sera. Viaggiare in camper, 8 motivi per sceglierlo. Perché scegliere di viaggiare in camper, ragazzi? Beh, ci sono un sacco di ottimi motivi. Noi ne abbiamo scelti 8, ma ce ne sono davvero tanti. Innanzitutto, alla base c'è un grandissimo risparmio, perché è vero che l'investimento iniziale è alto per acquistare un camper, anche se se ne trovano di seconda mano molto economici, magari non lusso ma validi, però si risparmia poi tantissimo in termini di hotel, ovviamente, anche il cibo, perché in fondo in camper puoi cucinare tu, quindi non sei obbligato a mangiare in un ristorante. Se vuoi ci vai, se non vuoi ti fai il tuo piatto di pasta. E quindi sono tutti soldi che tu risparmi, che puoi investire in esperienze, in attività. Diciamo te la godi molto di più, sì. Innanzitutto. E soprattutto per me, parlo per me, ma penso anche per Chiara, per me è la libertà. Io non ho mai sopportato di dover stare a delle regole, sia quando si andava nei villaggi turistici, sia negli hotel, quando faccio gli orari per mangiare. Invece col camper io faccio quello che mi pare. Mm-hmm. Mangio quando voglio, dove voglio, cosa voglio. E puoi anche parcheggiarti sempre nei limiti delle regole della legge della strada, dove vuoi, puoi scegliere il campeggio, ma puoi anche scegliere di parcheggiarti in riva al mare, dove è consentito, ovviamente. Insomma, non sei vincolato alle solite quattro mura. Il mondo è casa tua. Noi diciamo che abbiamo una seconda casa in giro per l'Europa. Però su una cosa, leggendo il vostro articolo, ragazzi, io mi ci trovo tanto. Perché io pure, il quarto punto, Fabio. Questo è fondamentale, perché è un abitudinario in realtà cambiare letto e cambiare bagno, anche questo era allora, considera che tu quando vai in un hotel, e soprattutto se giri tanto come giriamo noi, tu ogni giorno cambi letto. Sì. Ed è, per alcune persone questo provoca uno stress e non si riesce a dormire bene. Pure invece, a me provoca uno stress tutto ciò. Beh, guarda che io per esempio soffro di cervicale. Il fatto di andare in hotel per me significa quasi sempre non dormire la notte, perché mi prende male la cervicale, c'è il cuscino troppo basso, troppo alto, troppo morbido, troppo duro, dentro il materasso o all'estero c'è anche un problema di coperte, perché hanno tutti il piumone e non hai altro, e a volte fa troppo caldo per il piumone, ma fa troppo freddo per partenza. In camper te la gestisci tu. Ognuno si gestisce come vuole. Quello. E anche il bagno è fondamentale. Anche il bagno, c'è chi soffre anche il cambio di bagno. Ragazzi, io vi dico, quando vado io in vacanza, la cosa che mi dà più fastidio è l'abitudine del letto, cioè ritrovarmi il letto, che non è il mio, quindi prima che quando poi ci si abituano, la vacanza è finita, quindi io mi sono abituato al letto, quindi non me la sto godendo appieno perché non riesco a riposare bene. Però penso che sia un problema di tutti. Ma poi alla fine riposo, sai perché? Per sfinimento. Alla fine poi sono così stanco che devo riposare per forza. Per forza, ma pensa che invece noi quando partiamo, perché poi il camper, la bellezza è che la tua vacanza non è solo le due settimane grandi, tu decidi andarti a fare un weekend, tu prendi il tuo camper, l'accendi e vai. Vai anche solo a 50 km, vai in montagna, noi siamo in Piemonte, vai sui laghi ed è stupendo. E tu arrivi sul lago e dormi come se fossi a casa tua. Io prima di diventare camperista ho anche fatto per un periodo con mio padre viaggi in moto. Viaggi in moto, quindi molto spartani, con molto poco bagaglio, e ogni sera ci spostavamo di hotel. Beh, io alla notte non dormivo, e il giorno dopo spostarsi in moto era davvero difficile, perché mi addormentavo sul sellino, avevo sempre il terrore di cadere, ma ero talmente stanca perché non dormivo la notte, in camper dopo, quindi direi che sono anche sopravvivo alla vacanza. Ragazzi, siccome abbiamo più o meno sviscerati 4 di punti, gli altri 4 ci riteniamo per il secondo intervento, e adesso ci facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, e poi di nuovo in diretta qui con voi e con noi su Radio Stonata. Ok? Ok, certo, tra poco. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Post Maloma qui su Radio Stonata, siamo ritornati in diretta, sono ancora in compagnia dei nostri amici di nonsoloturisti.it, Fabio e Chiara, che ci stanno raccontando appunto 8 motivi per amare il camper. Ne abbiamo sviscerati già 4, e il quinto, cioè, c'è anche il bidet da camper. Sì, abbiamo anche il bidet. Immaginati, quando vai in Francia, che oltretutto abbiamo parlato con dei nostri amici e abbiamo scoperto che se tu ti fai montare un bidet in casa, la tua casa si svaluta. È proprio un odio per il bidet, non credevamo, ma è bene sì. Noi con lo nostro camper abbiamo il bidet sempre disponibile. Non solo in Francia, ovviamente, ma il problema che l'italiano sente, andare all'estero e non avere il bidet, lo sentiamo proprio nell'intimo. E da camper, quindi abbiamo anche quella comodità lì, certo, è una specie di bacinella. Sì, però basta adattare. Però è fatta apposta, quindi è performante, e abbiamo anche quello. Ragazzi, e poi il punto 6 è importantissimo, anche per chi ha intolleranze ai vari tipi, quindi tu ti organizzi e quindi hai dentro il camper tutto, ed è facilissimo da portarselo dietro, no? Sicuro, anche perché considera che comunque hai tutte le tue cose, hai tutte le tue pentole, la dieta la scegli te, se hai problemi, purtroppo c'è un sacco di gente che è celiaca, tolleranze varie, con il camper tu hai la tua cucina, quindi non vai in giro e se hai il terrore che quella pentola sia stata utilizzata per cucinare un pasto prima e non è stata lavata bene, quindi hai paura di prenderti qualcosa, né col camper non è così. Sì, come dicevamo prima, hai la piena libertà di decidere tu dove mangiare e cosa mangiare, sì, che non è da sottovalutare se hai dei problemi. Insomma, magari ti ritroveresti a mangiare insalata per tutta la vacanza per non correre rischi, vabbè, se vuoi. Però così mantieni la dieta, dai. Sì. Anche in vacanza. Anche per la dieta, anche se è un rischio, perché il camper sì ti dà più libertà, ma tu provi più cose da mangiare tipiche del posto. Sì, ti fai proprio tentare. Spesa nei negozietti, che è la grande differenza tra il turista in camper e il turista normale. Il turista in camper fa vivere anche la piccola economia del centro. Del centro che visita, quindi comunque conosce gli usi e i costumi del paese. Sì, già soltanto appunto andando a fare la spesa nel piccolo negozio. Ma poi anche se qualcuno di noi ha un cane, un gatto, spesso negli hotel o nelle spiagge dove ci si va è difficile che vengono accolti, anche se adesso questo tabù sta per essere anche questo superato, sì, però diciamo, ci sono ancora delle difficoltà, no? Invece, sicuro, col camper negli hotel è molto più difficile trovare degli hotel che siano, come ben scritto, pet friendly. Il camper invece, essendo la tua casa che si muove, ti muovi con tutto. Noi con mia mamma, c'è un secondo camper, noi ci portiamo dietro il cane di mia mamma senza problemi. Lui si mette al posto di, quando noi andiamo all'autogrill a prenderci il caffè, lui si mette al posto di guida e controlla il camper, sì, sì. Seduto sul posto di guida. Ma quindi abbiamo visto anche gatti in camper, sicuramente anche il canarino potrebbe stare, mia nonna ha il canarino, anche il canarino potrebbe venire in camper, chiaramente non lo portiamo perché non siamo via tanti giorni con mia nonna, però potrebbe. Poi non so, abbiamo avuto una ricerca sul nostro blog che chiedevano come portare anche un pappagallo. Io ne ho 6 di pappagalli di piccola taglia. Allora puoi portarli. Però un'altra cosa importantissima, ragazzi, che è il punto 8, i bambini. I bambini ovviamente vivono il viaggio come un'avventura. Pensa che innanzitutto, mettersi nei trasbordi lunghi, loro comunque hanno un posto dove possono giocare, disegnare, guardarsi il tablet, guardare la TV, alcuni hanno la parabola che si sposta anche in movimento, quindi c'hai anche la TV, puoi fare comunque passare il tempo. E poi una volta arrivati nei campeggi, normalmente i campeggi sono super sicuri per i bambini, le macchine o vanno pianissimo oppure non ci sono proprio, hanno tanti spazi per il gioco. Ma poi anche già soltanto vivere il camper, arrampicarsi sui letti a castello, insomma, per i bimbi è un'avventura, anche quelli piccoli sono più facilmente gestibili. Noi abbiamo visto gente viaggiare con bimbi di un mese forse in camper, quindi ritorniamo sempre alla questione precedente, tu puoi tranquillamente preparargli la pappa quando vuoi, dove vuoi, perché è la tua cucina. Sì. Non devi andare alla caccia del ristorante chiedendo per piacere mi fai riscaldare il latte, no, ce l'hai lì, te la fai. Ragazzi, siamo arrivati alla fine degli 8 punti. Che conclusione possiamo tirare sul viaggiare in camper? Mi sembra che ci siano solo dei vantaggi, no? No, ci sono anche degli svantaggi, ovviamente, non è solo quello. Innanzitutto bisogna considerare che il camper te lo devi pulire. C'è gente che in vacanza non vuole far niente. Certo, parliamo di un mezzo di dimensioni comunque ridotte. Il nostro camper è 7 metri di lunghezza e ha la cabina di guida compresa, quindi non è che devi pulire da style, però devi comunque cucinare. C'è gente che non vuole fare niente in vacanza. Il camper comunque ti costringe a fare dei lavori che fai tra virgolette anche a casa. È più difficile raggiungere i centri storici in alcuni centri, ovviamente, perché c'hai un mezzo da 7 metri passa. Sì. E poi spesso i campeggi sono un po' fuori dai centri abitati, quindi noi per dire stiamo valutando di prendere le bici piuttosto che un motorino elettrico, comunque. Sì, ci sono alternative, però comunque bisogna attrezzarsi, e il costo di un camper quando lo compri incide comunque. Incide. È una scelta che devi fare, che devi pianificare. Prima consigliamo sempre di noleggiarlo, di fare delle prove di vacanza per capire se il camper piace. È proprio il mezzo che fa per te. Anche perché la vacanza in camper o la ami o la odi. Non c'è via di mezzo. Si mette a dura prova le coppie, i gruppi di amici, si sta in un ambiente così ristretto che o crei perfetta sintonia o diventa davvero un incubo. Quindi prima noi almeno spingiamo la gente a provarlo come noleggio e quant'altro. Poi se si è sicuri, per noi è una scelta vincente. Noi viaggiamo solo in camper, per dirti. Non andiamo in hotel da non so quanto. Quindi È fantastico, ragazzi, è un divertimento. Immagino. Poi ho letto anche nel vostro articolo che avete fatto il viaggio di nozze in campo. Sì, noi sì, siamo talmente patiti che noi avevamo deciso di fare il primo viaggio, avevamo deciso di andare negli Stati Uniti a fare la Route 66 in camper, affittandolo lì. Poi abbiamo detto, ma perché invece di fare la Route 66 e pagare un sacco, non ci compriamo direttamente il camper e facciamo diventare che ogni viaggio diventa viaggio di nozze? Perché no? E infatti l'avete Perché fatto. no? E stiamo girando anche tanti parchi di divertimento che sono la nostra altra grande passione e anche lì abbiamo visto che si risparmia Sicuro. davvero tanto. Abbiamo una guida a Disneyland sul nostro blog dove proprio evidenziamo quanto poco costi andare a Disneyland col camper. A prezzo pieno il parcheggio camper costa 40 euro, però a camper, quindi se si è 2, 3, 4 persone a bordo si spende niente rispetto a un hotel. Con un abbonamento al parco si arriva a spendere 10 euro. Cioè, immaginati che tu puoi parcheggiare un posto comodo per andare a vedere Parigi spendendo 10 euro al giorno. È un risparmio enorme. Per dirti. Infatti, ragazzi, io non so se avete altro da aggiungere, se no per questa sera, e dico solo per questa sera perché vi rivoglio di nuovo in diretta qui su Radio Stonata prestissimo, perché mi piace il camper, voglio saperne ancora di più, come immagino tutti i nostri radioascoltatori all'ascolto. Ritornate a ritrovarci e a parlarci ancora di camper e di vivere con questo fantastico mezzo in giro per il mondo, per l'Italia e per tutto il mondo. Ragazzi, mi voglio cimentare ancora una volta nel vostro nome perché mi diverto. Vai, vai, provaci. Allora, Alemadic, No, Allemandic. Allemandic. Bravo! Ok, e quindi ragazzi, Allemandic è anche una pagina Facebook, è andata a seguire i nostri Fabio e Chiara, i nostri camperisti di questa sera. Ragazzi, grazie ancora e ci risentiamo prestissimo qui su Radio Stonata, ok? Certo, grazie a te. Ciao! Ciao, buonasera Ciao! ragazzi! Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it.